cura insieme. Non è finito niente, eppure come donna non mi dicevi niente, così inutile, così fragile. Se penso che ti amo, sorrido del passato. Fatto da tre lire, comincia il nostro amore, così inutile, così fragile. Così dopo cinque minuti finito in un motel, un amore così non puoi chiamarlo amore. È di seconda mano, così inutile, così fragile. Ancora insieme e puoi chiamarlo amore. Nato piano piano, quasi senza rumore, così inutile, così fragile. Seconda mano, oggi è diventato amore.